fare tutta la... Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontare. Sempre in collegamento con Resto Radio Convento, un altro sabato sera in nostra, ma soprattutto vostra, ma ancora più soprattutto, anche se non è molto italiano, loro compagnia. La compagnia dei nostri festeggiati, la compagnia dei veri protagonisti di ogni nostra serata qui al Convento di Ronato. Ne abbiamo tanti, ne abbiamo diversi. E come insomma potete anche vedere tramite le nostre webcam, in questo momento abbiamo un ragazzo che fa insomma dell'estetica anche un vanto, un punto di forza, un po' Mirko dei Beehive, mi ricordi, non so se seguivi Kiss Me Licia all'epoca. E un altro sposo, quindi lo andiamo a conoscere meglio. Benvenuto intanto, come ti chiami? Giovanni. Oh, Giovanni, benvenuto di nuovo. Dici un po' da dove vieni? Paitone, benissimo. E cosa stai festeggiando questa sera? Addio al celibato. Il tuo addio al celibato, molto molto bene. Chi sarà? Raccontaci un po'. La fortunata che ti sposerai quando? Andrea l'11 maggio. Andrea l'11 maggio, molto molto bene. Ah, vuole subito la dichiarazione d'amore, forte, forte. Prego, Marco, fai tu. Sono Giovanni e devo dire che amo tantissimo Andrea. E l'unica ragazza. L'unica ragazza per me e non vedo l'ora di sposarla. Mica, già, sei tipo i... Ah, se qualcuno ha bisogno di... Ah, vicino alla dichiarazione d'amore c'è giustamente il marchettone. Il marchettone arriva. Se qualcuno ha bisogno di piastrelle, sono il miglior piastrellista della zona di Paitone. Ci sta assolutamente, diceva fuori onda che insomma lui fa il piastrellista. No, mi piaceva l'idea, sai, come i presidenti, quelli importanti, che hanno quelli che gli scrivono i discorsi, no? E anche Giovanni giustamente c'ha una voce, ha una voce, una sorta di grillo parlante, una voce esterna, una voce fuori campo che fa le dichiarazioni importanti. Quello che adesso ci stavamo chiedendo tutti è chi farà l'11 maggio le promesse di matrimonio, tu o lui? No. Cioè avete insomma ne avete già discusso? Ah, tu addirittura una terza voce. Una terza voce addirittura. Tra l'altro, come potrete sentire adesso, che faremo provare, una voce baritonale, palesemente come dire umana, una sorta di quasi Pavarotti, direi. Vai, sentiamo. Io sono Francesca e per le cose importanti penso io, Giovanni. No, bello, bello. Le promesse di matrimonio. Direi, ecco, come avete potuto sentire, visto che grazie a Dio la radio ha questa bellezza di amplificare la parte audio, visto che nessuno ci vede, Francesca... Grazie a Dio. No, era per dire che Francesca si può palesemente confondere con la voce di Giovanni, cioè nel senso sono praticamente uguali, no? Sì, esatto. Quindi è stata una scelta... Esatto. Una scelta curata. Quello che ecco, un'altra cosa interessante che mi veniva in mente da capire è se ci sono stati una sorta di casting per trovare le tue voci o insomma sono nate strada facendo. Abbiamo avuto la fortuna di trovarci lungo la strada. No, che bello. Le ho selezionate. Bello, bello, anche perché poi ci sarebbe da capire se loro, immagino, siano tuoi amici, sono amici perché fondamentalmente ti salvano la vita nei momenti importanti. O anche perché sono amici veramente, cioè non li stai solo sfruttando come voce narrante dei tuoi no. momenti topici della tua vita. Sono svelare morto di figa. sono miei amici. Ah, bene, bene, bene. E spiegami anche il ruolo dei due figuri là in fondo. Se loro non parlano. Scusami, ma vuoi subito la testa nel vetro? Oppure sono bodyguard del fumettista. Il bello e il cattivo. Il bello e il cattivo, mi piace questa definizione. Cazzo, però beh, insomma, ve le ha date lui le definizioni, e quindi allora lo accettiamo. Esatto, evidentemente ha dei gusti, ha dei buoni gusti, evidentemente. Vai, allora Giovanni, abbiamo sentito le voci, direi anche di presentarli, sì. Giustamente. Vai, vuoi fare tu? Allora, Alberto, Andrea, Francesca e Marco. Bene, bene. Giustamente, gli accompagnatori del nostro Giovanni, grande, ci ricevi tutti amici, grande, tutti i tuoi amici, sì, un bel compagno di scuola, Bene, tutti compagni di scuola addirittura. Compagni di scuola. Bello, tra l'altro volevo sottolineare, mi fa piacere, visto che è abbastanza raro, la presenza di una donna, un addio al celibato, che non è usuale. Fondamentale. Infatti, non lo dico, non è usuale, era un segno sono distintivo. Le fondamenta. Vorrei dire che è un'esca. Un'esca, questo è interessante. Attirare, sentiamo. La usiamo come esca per attirare il sesso femminile. Ok. Ok, questa è interessante, è una buona tecnica. Qui chiudo il comunicato. Ah, ok. No, pensavo volevo approfondire un attimo, volevo capire come utilizzate, insomma, questa risorsa. La tecnica psicologica è derivata dal fatto che le donne, se vedono una donna all'interno del nostro gruppo, credono che non ne abbiate bisogno. Giusto. E invece siamo già sazi. Esatto. Siamo saturi. Sazi. In realtà voi dovete ancora cominciare. È ben oltre. In realtà voi dovete ancora cominciare l'antipasto. Sì. Quindi c'è tutta la cena da fare, no? Fino al digestivo. Lui è già la frutta. Lui è già la frutta, passa direttamente. In realtà ragazzi, devo dire che c'è una persona qua che possiamo buttare nel mucchio. Lanciare nella mischia. Buttare nel mondo femminile, che è quello che abbiamo chiamato il cattivo, perché lui era il bello e il cattivo. E il cattivo, ragazzi. Tra l'altro se l'unico si è commosso, si è commosso perché non se l'aspettava. È stato il modello. Esatto, è stata una. Era dall'82 che nessuno lo chiamava il bello, dalla mamma quando l'ha visto nascere. Bello. Invece, il cattivo è l'unico single e quindi è quello che lanciamo al popolo femminile. Che... E già tre donne, devo dire, che hanno. Hanno mostrato interesse. Venditore, figa, guarda l'animo da venditore. Hanno mostrato interesse. Sì. Ricordo per le piastrelle. Lombardi Giovanni. È giusto ogni tanto, come ogni programmazione di Italia 1 si rispetti, nel momento più importante del film, pam, ci piazzano la pubblicità e lo spottone. Giusto per non pagarle sempre. Per le piastrelle del bagno e per le piastrelle di casa, Lombardi Giovanni, top dei top. Merda, poi un rapporto. Bello. Oh. Mi piace perché tra l'altro lui è buonissimo d'animo, perché sta cercando di aiutare tutti, no? Aiutando lui a lavorare, lui a trovare la ragazza. Marco il misericordioso. Direi Marco il misericordioso. San Marco il misericordioso. Buono, non male. Non male come titolo. Beh, allora a questo punto, visto che abbiamo il bello, il cattivo. Mi stupisco di lei che non capisca. No, stavo pensando, cioè il bello, il cattivo, il misericordioso, a questo punto dobbiamo trovare un'etichetta anche per lei. Aspetta. Dimenticavo una postilla, un'etichetta che si possa dire a quest'ora, microfoni accesi. Perché già l'ho visto troppo carico. Io posso dare io. Assolutamente. Mitica, bello, anche perché non è scontato come aggettivo, quindi bravo, bel messaggio. Ricordo che il volo è la ricerca di una donna. Lui continua a fare spot promozionale, è bellissimo. Forse nel morto di figa. È bellissimo. Stai dando forse nel morto di figa, pensa. A tutte le donne che può. All'interno contatta il 339. No. Va bene, dai. Per i progetti di geometri, contate Francesca Pedersoli, geometra. No, ormai è veramente. È uno spot infinito. Lui è veramente incredibile. Coglie ogni occasione. Sì, ogni occasione è buona per aiutare il prossimo, mi fa piacere. Che tra l'altro sembra che stia diventando la vostra intervista, ci stiamo palesemente dimenticando di lui, che è rinchiuso in un angolo e stava piangendo perché nessuno... Era contento così. Però no. Come fare a non rimanere affascinato? Con tanta bellezza. Quindi, ma infatti secondo me è quello il problema, è che noi ci dimentichiamo di Giovanni perché l'attenzione palesemente, tutti gli occhi sono su di lui. E quindi non apprezzo dell'uomo. Non apprezzo, sì, come per io. Perché superava la tua bellezza. Comunque anche il bello, ragazzi. Alberto il bello. Scusate, qualcuno parli di lui, perché è lui che sta facendo. Facciamo parlare Giovanni. Dai Giovanni. Giovanni, va, vuoi parlare del misericordioso? Vai Giovanni. Pensaci tu. Giovanni, mi sembra giusto. A questo dopo qualche video del nostro amico Marco. Marco. Ciao. Quel tempo della tua vita immortale quando me l'hai spento. Oh, beh. Troppa cultura. Perché sta recuperando le informazioni, sta riassumendo. Hai finito? No. Hai già detto quello che dovevi dire. Prego Marco, fai pubblicità. No, in teoria dovresti fai numero spoiler. Allora, facciamo così. Marco, presentati come ti presenterebbe Giovanni, visto che sei la sua voce ufficiale. Allora, io conosco Giovanni da ormai. No, è il contrario. Io conosco Marco. Esatto. Devi presentare te stesso con la voce di Giovanni. Giovanni, piastrellista numero uno di Paincone. E altro spottone. E conosco Marco perché lui mi ama come piastrellista e ti stima. È un rapporto di interesse. E credo che lui abbia una grande stima di me come piastrellista, e se dovesse consigliare a qualcuno di fare le piastrelle, consiglierebbe Lombardi piastrellista. Questa è la presentazione di Marco. Quindi è un'amicizia di interesse fondamentalmente. È un'amicizia veramente profonda. Esatto. Fondata su sani valori. Marco. Bene, bene, bene. Puttana, e allora? Come io lancerei comunque un messaggio, a parte per il bello, lancerei due messaggi per le donne al convento. Esatto. Non sbagliare, io ne lancerei una per il bello, che lasciatelo perdere, perché ho capito che mettete le mani sul vetro, sì, e vi arrabbiate. Infatti, c'è pieno. Basta, c'è una ressa incontrollabile. Voi non potete vedere, ma è così. No, infatti, confermiamo. E pronta per invece il cattivo non è così cattivo come sembra. No, anzi, cioè lo chiamano il picchiatore, perché comunque i pugni dei reni sono la sua base, però comunque sono duro ma giusto. Severo ma giusto. Bravo, ma giusto, sì. Bravo, qualche pugno dei reni, ma quando serve. Okay. Allora, al momento opportuno. Al momento opportuno, ci sta, ci sta. Perché comunque io vorrei lasciare questo messaggio: il pugno dei reni, quando serve. Il tuo montessoriano pugno. Infatti la tua fidanzata è avvezza. Sua fidanzata ha donato i reni il secondo giorno che l'ha conosciuto per evitare problemi. E ti faccio una donazione subito, così evito casini. Bruttanato. Va bene, capiamo, siamo singoli. Bello. Allora io farei salutare Giovanni, almeno mandare un ultimo messaggio da Giovanni, festeggiato, e poi chiudiamo, vai. Giovannino si sposa. Io. No, ce la fa Giovanni, ce la fai, dai. Una dichiarazione a Andrea, così. Se si sente. Beh, potrà ascoltarti. Allora, venite, se vi servono piastrelle dal bagno. Bello, bellissimo. Ormai l'hai drogato, Andrea, comunque, e l'hai iniettato. Piastrelle dal bagno, vai dal bagno. Bello, bella cosa. Allora, grazie mille ragazzi, in bocca al lupo per le vostre attività. Non ho ancora capito il lavoro che faccia Giovanni in tutto questo, perché non mi è sembrato chiaro in questi minuti. Insomma, lo capiremo meglio le prossime volte, però sicuramente tantissimi auguri ancora a Giovanni, e grazie a voi per la bella chiacchierata e per i simpatici minuti passati insieme. Ciao! E Giovannino si sposa!